Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta e immagina il mondo considerando degne di attenzione e di rispetto tutte le specie animali. Per la prossima mezz'ora vi terremo compagnia con notizie, interviste e tanta buona musica selezionata dal nostro Giuseppe Coco. In questo numero parleremo di campioni del rock, di macachi contesi, di cibo del passato e cibo del futuro. Restate con noi. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. La notizia della settimana arriva dal Consiglio di Stato, l'organismo giudiziario di secondo grado, che ha accolto un ricorso presentato dalla LAV, Lega Antivivisezione, contro un progetto di sperimentazione scientifica sugli animali che l'Università di Torino e Parma intendono condurre a discapito di un gruppo di macachi. Il progetto è stato contestato dalla LAV in molti modi, sia con iniziative pubbliche di piazza, ma anche sotto il profilo tecnico e del rispetto delle leggi. Il Consiglio di Stato, capovolgendo la precedente pronuncia del TAR, ha sospeso la sperimentazione, sostenendo, come si legge nell'ordinanza, che è l'ente che sperimenta a dover provare che non esistono alternative a una sperimentazione invasiva sugli animali e foriera di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici. Il Consiglio di Stato naturalmente rimanda al TAR per una decisione nel merito, ma intanto la decisione è stata accolta con ovvia soddisfazione dalla LAV, che ha subito chiesto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, di revocare l'autorizzazione al progetto e di salvare quindi i macachi. L'Università di Torino, dal canto suo, ha reagito sostenendo di aver presentato a tutti gli organi competenti le prove necessarie a ottenere l'autorizzazione e ha lanciato un allarme gravissimo, parlando di una crescente messa in discussione del principio costituzionale della libertà di ricerca. Ha rincarato la dose, se possibile, la senatrice a vita Elena Cattaneo, ricercatrice a sua volta, non nuova a sortite molto radicali. Secondo Cattaneo, la decisione del Consiglio di Stato è un vero e proprio attacco alla scienza, per cui non può stupire, aggiunge, che tanti ottimi studiosi scelgano di fuggire dall'Italia. Il progetto di ricerca sui macachi, insomma, sta portando alla luce un conflitto che ha ragioni soprattutto etiche e culturali, contrapponendo opposte visioni della vita, della società e della scienza. È un conflitto che sta finendo nelle aule di giustizia, e non solo della giustizia amministrativa, visto che il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, ha informato d'essere indagato dalla Procura della Repubblica di Parma per i reati di rivelazione di documenti segreti, accordi per istigare a reati, minacce e diffamazione. Qualcuno, ha commentato Felicetti, vuole intimidirci, ma il risultato ottenuto è proprio quello contrario, di rendere più forte e convinta la nostra battaglia contro la sperimentazione sugli animali. Come ha sentenziato il Consiglio di Stato, dice ancora Felicetti, la nostra azione legale contro i test sui macachi all'Università di Parma è fondata. Abbiamo diffuso pubblicamente dati già noti, operiamo alla luce del sole e in maniera non violenta dalla nostra fondazione, 43 anni fa. Siamo quelli che hanno fatto condannare Green Hill fino alla Corte di Cassazione. Una vicenda infuocata della quale abbiamo parlato con Luigi Lombardi Vallauri, professore emerito di filosofia del diritto, curatore del volume La questione animale nel trattato di biodiritto curato da Stefano Rodotà e Paolo Zatti. Thank you. seguirò nell'ordine l'etica, il diritto e la scienza, che sono le tre dimensioni del problema. Dal punto di vista etico, io sono uno che aderisce alla non violenza, quella di Gandhi, e non c'è dubbio che la sperimentazione sugli animali è violenta e crudele, e Gandhi diceva: non vorrei mai essere curato in base a sperimentazioni sugli animali. Il diritto positivo recente, sottolineo recente, ha recepito molto di questa etica, però insufficientemente. Cito per esempio la legge del 2004, che al 544 bis del codice penale fa dire che chiunque uccide o maltratta senza necessità un animale è punito col carcere. Poi abbiamo una legge che è un po' una gloria italiana, quella sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, che dovrebbe essere proprio incrementata e segnalata a tutti gli studenti e ai ricercatori, dicendo anche che non deve esserci conseguenza nociva per la loro carriera. Poi abbiamo una direttiva europea che riprende un nostro decreto, che è del 2010, e qui io metterei in luce il principio di residualità, cioè il nostro diritto stabilisce che laddove ci sono alternative devono essere preferite. Quindi la ricerca su animali, la sperimentazione su animali è residuale, e è chiaro che l'onere della prova deve essere dato dal ricercatore, cioè quando lui annuncia al Ministero della Salute o in giro faccio questa ricerca, deve dire non c'è altro modo, perché se c'è non la può fare. Quindi onere della prova sul ricercatore. Poi c'è un altro principio, quello della non ripetizione, perché sono due delle tre R famose. Il primo è replace, sostituire, il secondo è possibilmente reduce. Allora, quando un esperimento è già stato compiuto, non è permesso rifarlo. E l'amico Bruno Fedi mi ha segnalato un caso in cui un esperimento è stato rifatto, credo nel mondo, 48.000 volte. Anche qui l'onere della prova spetta a chi fa la domanda di sperimentare, cioè deve dire non è stato ancora fatto. Quindi abbiamo già due oneri della prova molto importanti. Poi si potrebbe sottolineare una frasetta dell'articolo 544 bis ter del codice penale: chi uccide o maltratta senza necessità. E la necessità è anche un'altra cosa che va dimostrata. Quindi c'è un peso molto grosso sul ricercatore, perché il diritto recepisce l'etica della non crudeltà. Ma forse un punto non meno essenziale, almeno secondo alcuni, meno essenziale dell'etica, io invece penso che lo dirò, che l'etica è ancora più importante, ma è la non scientificità di questi metodi. Sono poco probanti e sempre più rifiutati dalla comunità scientifica, per un semplice motivo, che quello che vale per un ratto e magari anche per un macaco non vale per un uomo. Perfino tra due uomini possono esserci delle cose che fanno male a uno e non all'altro. Ora, in particolare i macachi sono molto protetti, per esempio la direttiva europea li accetta salvo assolute necessità. La prova della insostituibilità poi non è scientifica, almeno nei tempi lunghi, perché la storia della scienza e della tecnica è una serie di sostituzioni. Quindi se uno avesse detto le carrozze sono insostituibili, è smentito dalle automobili, e questo vale proprio della scienza. Quindi la frase qualcosa è insostituibile è antiscientifica. Bisogna tenere presente che ci sono già adesso fino a quasi 100 metodi alternativi, non tutti industrializzati, ma ce ne sono. Quindi la prova della insostituibilità è praticamente impossibile. Concludendo, io non ho sotto mano la sentenza del Consiglio di Stato, ma quello che è certo, in base ai principi, è che al ricercatore bisogna chiedere, all'onere della prova, bisogna chiedergli quasi pedantemente e pesantemente di dimostrare appunto che è d'accordo con la legge protettiva. Al di là della sentenza, io credo che la politica dovrebbe incentivare i metodi alternativi e soprattutto la formazione alternativa dei ricercatori. Si continua a sperimentare sugli animali anche perché i ricercatori imparano solo quello. E devo dire che i soldi investiti anche nel progetto finanziario del 2020 per riciclare il tutto, a cominciare dalla formazione dei ricercatori, mi sembra decisamente insufficiente. Io personalmente vorrei una moratoria, e cioè sospendere gli esperimenti fino a quando non sia data tutta la incentivazione possibile ai metodi alternativi. La mia testa parta, la mia testa ritorna, una canzone che sommerge i miei occhi. Metti un brano di Nick Cave e una clip in formato cartoon con un Erculeo paladino degli animali che salva i cani, protegge le tartarughe, libera i pesci finiti nella rete. Mescolate tutto e avrete un divertente cartone firmato PETA, la più grande organizzazione animalista internazionale, con due stelle del rock come ospiti e protagonisti. Nick Cave, appunto, che ha offerto il suo brano Breathless, e Iggy Pop, trasfigurato nel cartone, con tanto di canottiera bianca che a un certo punto viene strappata per mostrare i muscoli tipo Superman. Iggy Pop nel video compare anche in carne e ossa, verso la fine, sul divano, accanto al suo cane. Lo scopo di questo filmato è sensibilizzare le persone sui rischi e le minacce che gli animali corrono nella società presente, e anche spronare tutti a imitare l'Iggy Pop animato e quindi farsi difensori attivi degli animali. È un video di costante attualità, risale a 2 anni fa, ma ci piace segnalarlo e riproporlo in una puntata che abbiamo aperto con la lotta politica, culturale e anche legale, avviata per cambiare il corso degli eventi su uno dei nodi storici della questione animale, la sperimentazione scientifica. Una questione che non possiamo lasciare agli scienziati. Up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lamps. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings, his throat it trembles when he sings. For he is helpless before you, and the happy hood of bluebells bow and a bend of their heads all down. Heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Giovedì 30 gennaio si è chiusa ufficialmente la stagione venatoria 19-20 con la consueta scia di sangue, principalmente animale ovviamente, ma anche umano, visto che secondo l'Associazione Vittime della Caccia un bilancio provvisorio aggiornato al 15 gennaio conta 82 vittime, 24 morti e 58 feriti. Si tratta con tutta evidenza non già di incidenti come normalmente vengono definiti, ma come il tributo di sangue umano alla pratica venatoria, vista la sua regolarità. Fra i primi a commentare la chiusura della stagione è il presidente della LIPU, Lega Protezione Uccelli, Aldo Werner, secondo il quale la stagione ha messo in evidenza 2 grandi criticità: la disposizione filovenatoria di molte regioni e il persistere di gravi fenomeni di bracconaggio e caccia illegale. A farne le spese, dice Werner, sono state specie super protette, come il lupo ucciso a fucilate lo scorso novembre nell'oasi LIPU, Castel di Guido, presso Roma, ma anche la coppia di falchi pellegrini abbattuta nei giorni scorsi sempre a Roma, e poi aquile minori, un'aquila di Bonelli, oggetto fra l'altro di un progetto di reintroduzione, ma anche aironi, poiane, gheppi, sparvieri, gufi, upupe, abbattute e giunte ai nostri centri di recupero, dice ancora Werner, in decine di esemplari, ma che forse ammontano a centinaia di individui. In un altro comunicato, a firma congiunta stavolta di LAV, LIPU, EMPA, WWF e Lega Ambiente, si mette in allarme contro alcuni emendamenti al decreto mille proroghe presentati da Lega e Forza Italia. Emendamenti che porterebbero, scrivono le associazioni, fucili all'interno dei parchi delle città, a qualsiasi ora e in tutti i giorni dell'anno, ma anche la cancellazione del ricorso ai prioritari metodi incruenti e al parere dell'ISPRA, che verrebbe declassato a documento non vincolante. Il tutto finanziato con 10 milioni di euro all'anno. Insomma, c'è il rischio che la pratica della caccia, ormai in declino e anacronistica, abbia un artificioso rilancio con un intervento dall'alto. Sarebbe davvero paradossale. Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Il mondo e i regimi alimentari stanno cambiando, sia pure molto lentamente, troppo lentamente rispetto a quanto sarebbe necessario per dare un contributo alla lotta contro la catastrofe climatica, visto che ormai è acquisito alla scienza che sarebbe necessaria una radicale riduzione dei consumi di carne e latticini, alimenti assai dispendiosi e inefficienti sotto il profilo del consumo di risorse. Qualcosa, dicevamo, sta cambiando nelle abitudini alimentari e dagli Stati Uniti arriva la notizia che l'industria casearia sta perdendo ben $1 miliardo all'anno. Si è passati, secondo i dati del Dairy Farmers of America, dai 14,7 miliardi di dollari del 2017 ai 13,6 miliardi del 2018. E d'altra parte, sull'altro versante, c'è un aumento del 61% della domanda di latte vegetale negli ultimi 5 anni. negli stessi Stati Uniti. Quindi c'è un progressivo spostamento verso gli alimenti vegetali, con il progressivo diffondersi di un'alimentazione vegetariana e vegana, come indicato peraltro dagli stessi scienziati che si occupano dei cambiamenti climatici. Ma c'è un ulteriore fronte, ovvero la produzione in provetta di nuovi alimenti, studiati in modo da garantire un adeguato apporto nutritivo senza costare granché in termini di inquinamento e consumo di risorse naturali. È la frontiera del cibo sintetico e di laboratorio, già più diffuso oggi di quanto non si pensi, visto che i primi hamburger del genere sono già in vendita, in via sperimentale, in varie catene di fast food, con piena soddisfazione, a quanto si sa, dei consumatori. Un nuovo filone di ricerca intende produrre carne e pesce, o per meglio dire cibi che hanno sapore e valore nutritivo simili a quelli di carne e pesce, a partire da cellule staminali prelevate da una varietà di vermi, la sfinge del tabacco, un lepidottero diffuso in Nord America. È la sfida di Nathalie Rubio, ricercatrice del Dipartimento di Biologia della Tufts University, che sta lavorando sulle potenzialità di alcuni insetti nell'alimentazione del futuro. La sfinge del tabacco, ha spiegato la ricercatrice in un'intervista, è muscolosa e grassa, e queste caratteristiche ci aiuteranno nel nostro scopo. Fra le varie attività c'è anche quella della New Wave Foods, un'azienda che ha messo nel mirino i gamberetti, o meglio la filiera produttiva che porta i gamberetti negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo. La catena di approvvigionamento di questi gamberetti ha un impatto ambientale terribile, ha spiegato in un'intervista Mary McGovern, fondatrice della New Wave Foods, l'azienda che sta lavorando infatti a un prodotto a base vegetale che assomiglia e ha il sapore del gambero. Posso dire, dice ancora McGovern, che contiene alghe e che tutti i nostri ingredienti sono sostenibili. Insomma, la necessità di ridurre l'impatto ambientale dei consumi di carne e latticini sta alimentando un certo attivismo sia nel mondo della ricerca sia nel mondo dell'impresa. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Abbiamo parlato di cibi sintetici e confessiamo che per noi è difficile appassionarsi a questi prodotti di laboratorio, per quanto essi un senso comunque ce l'abbiano nella folle economia dei consumi. Diciamo allora che preferiamo attenerci a un'alternativa più semplice e più familiare, ossia l'alimentazione su base esclusivamente vegetale. Un'alimentazione, come sappiamo, assai ricca di varianti e soluzioni, molto appaganti per il palato, oltre che per lo spirito. Sentiamo che cosa ha inventato questa settimana Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, per il suo spazio etico gastronomico settimanale. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Questa settimana, per rendere omaggio a due icone del rock, ho riadattato la ricetta del pan pepato umbro, realizzando dei dolcetti da preparare con la radio a tutto volume e si consiglia di pogare senza ritegno al momento di infornarli. Gli ingredienti per 4 persone per il rock a bestia sono 50 g di farina, 50 g di mandorle, 50 g di nocciole, 50 g di noci, 50 g di scorza di arancio candita, 50 g di uvetta, una tazzina di rum, 80 g di cioccolato fondente, 100 g di zucchero di canna, un pizzico di cannella in polvere, un pizzico di noce moscata e mezzo cucchiaino di pepe nero in polvere. Mettete l'uvetta in ammollo nel rum, scolatela e fatela asciugare. A parte fate sciogliere lo zucchero di canna con un bicchiere di acqua. Lasciate a fuoco dolce fino ad ottenere uno sciroppo denso. Togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato fondente in modo che si sciolga. In una terrina versate lo sciroppo di zucchero col fondente. Aggiungete l'arancia candita tagliata a pezzetti, la frutta secca, la farina, l'uvetta e gli aromi. Ed infine mezzo cucchiaino di pepe nero in polvere. Lasciate riposare ed insaporire l'impasto per mezz'ora. Nel frattempo portate il forno a 180 gradi. Su una teglia con della carta forno realizzate dei pasticcini dalla forma di rocce. Infornate a 180 gradi per 15 minuti, quindi lasciate raffreddare in forno. Infine lasciate riposare ed insaporire almeno per un giorno prima di consumare, conservando in un luogo asciutto. Holly came from Miami, FLA. It's tacked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. Color girls go. Chiudiamo con una notizia curiosa che prendiamo da lazampa.it, lo spazio dedicato agli animali dal quotidiano La Stampa. È la storia di Eclipse, una cagnolina di Seattle che prende il bus da sola, raggiunge il parco per la sua passeggiata e sempre da sola torna a casa. È cominciato tutto, spiega lazampa.it, il giorno in cui Eclipse salì sul bus appena prima che la porta si chiudesse, mentre il suo accompagnatore umano, di riflessi meno pronti, rimaneva a terra. La cagnetta continuò il viaggio e scese comunque alla fermata giusta. Fece la sua consueta passeggiata e ritrovò più tardi il suo accompagnatore, arrivato con il bus successivo. Da allora il viaggio in autobus è diventato un'abitudine. Eclipse viaggia con l'abbonamento ben visibile appeso al collo, prende posto sul bus per i passeggeri che ormai la riconoscono e, finita la sua passeggiata, prende la via di casa con l'approvazione dell'autista e della polizia locale. Un piccolo esempio di buona convivenza. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stessa rete. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.